Sì, noi siamo stamattina entrati in uno stabile molto grande, stiamo parlando di 3 piani con una superficie insomma veramente ampia in via Oberton 16, uno stabile appartenente sia all'Università di Bologna che a un privato e in disuso da decenni. E questa azione ovviamente si iscrive in un clima già di protesta espressa con l'occupazione di BU della scorsa settimana, insomma sempre sul tema del vivere la città, dell'abitare la città, e che oggi vuole andare a toccare con mano quelle che sono le responsabilità di un'amministrazione universitaria che, come dire, con fin troppa facilità si lava le mani della vita, delle sorti, delle condizioni della vita di studenti e studentesse. Noi oggi crediamo che la situazione abitativa bolognese non sia frutto di un fatalismo, ma quindi di una fatalità, di una cattiva sorte, di sventura, ma sia il prodotto di scelte politiche ben precise che in questi anni sono state prese dalle varie governance e che quindi oggi ci fanno trovare in una realtà molto complessa. Quindi siamo entrati in questo stabile con l'intenzione di farne un'occupazione abitativa per tutti e tutte, ma anche con la volontà di uscirne immediatamente nel momento in cui l'università apra pubblicamente lei stessa questo posto come alloggi per gli studenti gratuiti e quindi rimarremo qui a garanzia del fatto che questo processo, se avverrà, avvenga nel minor tempo possibile. Se non avverrà, rimarremo qui per appunto per continuare la nostra occupazione. Queste dunque le condizioni che ponete e quindi chiamate, come dire, alle proprie responsabilità l'università, che pure nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, aveva ammesso che c'è un grosso problema abitativo in città, però Sì, poteva sì. far di più. No, per noi non ammetterlo equivarrebbe a negare la realtà dei fatti o essere in qualche maniera incapaci proprio di leggere quella che è la quotidianità. Quindi non ammetterlo non penso, cioè penso non sia più possibile. Però oggi si ammette che c'è una situazione disastrosa, appunto creando però questa sorta di in qualche maniera siamo tutti sulla stessa barca o ah sì, purtroppo chi lo sa perché sta capitando questa sventura. E invece no, per noi non è così. Per noi c'è un rapporto di causa ed effetto con le politiche degli ultimi anni e la situazione di oggi. Quindi in questo rapporto di causa ed effetto ci sono dei responsabili e noi a questi responsabili stiamo chiedendo il conto di quella che è la situazione e stiamo chiedendo anche che la situazione cambi. Nella nuova occupazione c'è già un primo appuntamento per questo pomeriggio? Sì, noi oggi pomeriggio faremo un'assemblea che sarà un'assemblea politica e non di autogestione dello spazio perché noi crediamo che questo debba essere un trampolino per una lotta che non si deve chiudere all'interno di Via Oberton 16 perché appunto consapevoli del fatto che non è uno stabile che risolve l'emergenza abitativa a Bologna perché è un problema sistemico generale e quindi più che altro in quell'assemblea da questo spazio abbiamo la pretesa di incominciare e implementare quello che abbiamo già iniziato nelle scorse settimane, quindi una lotta che sappia andare a toccare vari pezzi della città. Ecco, l'avevate già anticipato proprio davanti a BU in via Serlio, insomma il problema è grave e quindi voi non vi fermerete. Ci sono molti stabili in queste condizioni di proprietà pubblica in città? In realtà il problema, ed è tra le nostre rivendicazioni, è che negli anni e in questi anni soprattutto stiamo vedendo una grandissima svendita immobiliare, appunto degli immobili pubblici, in mano ai privati. Quindi noi oggi, e questo ne è un esempio, questo palazzo è stato provato dall'Unibo, documenti pubblici attestano che è stato messo al bando per appunto un'asta fallimentare a cui nessuno è partecipato, ovviamente con prezzi elevatissimi, qualche anno fa. Ecco, noi crediamo che questo sia uno scempio, io credo che appunto l'immobile pubblico vada destinato alle emergenze, alle necessità, ai bisogni e desideri di studenti e studentesse e non venduto ai privati, perché altrimenti ci ritroveremo in una città in cui appunto le strutture che ci saranno quelle di BU, di The Student Hotel e basta, e in cui l'università dirà: ah, ma noi non abbiamo strutture. No, le strutture ci sono e quindi non vendiamole e utilizziamole con i fini giusti.